Europa 24. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, Grillo senz'altro, siamo stanchi dei sacrifici, dice questa mattina in una movimentata, si può ben dire, conferenza stampa a Bruxelles. Vogliamo riprenderci la sovranità della nostra moneta, salvare le nostre aziende, dice ancora Grillo. È caduto il muro, non quello delle carte di credito. Così naturalmente Grillo che stamattina presentava la sua campagna referendaria anti-euro al Parlamento di Bruxelles. È stata anche l'occasione per il leader del Movimento 5 Stelle di attaccare direttamente il capo della Commissione Juncker, definendolo il capo, o meglio l'ex capo, di un paradiso fiscale. Poco dopo tutto questo movimentato appunto un momento che in realtà è durato circa un'ora e un quarto, è stato Juncker invece a entrare in sala stampa per rispondere di fatto direttamente e indirettamente a Grillo e anche alle molte sollecitazioni che in questi giorni arrivano sul cosiddetto caso LuxLeaks, quindi il Lussemburgo, il suo ruolo di facilitatore fiscale per grosse aziende o paradiso che dir si voglia, che ha toccato direttamente Juncker in quanto a lungo primo ministro di quel piccolo ma ricco paese. Juncker, da chi è stato eletto, aveva chiesto lo stesso Grillo e Juncker sostanzialmente è ripartito da quel punto, dice: sarei reeletto anche oggi nonostante questa questione, dice. Ha risposto direttamente anche a un giornalista dicendo: sono credibile, adatto quanto lo è lei. Insomma, un Juncker piuttosto nervoso a rappresentare naturalmente l'Europa in questo consesso. Ha poi aggiunto che le decisioni fiscali sono prassi consolidate, sono dichiarate legali dalla Commissione purché non discriminatorie e queste leggi del Lussemburgo lo prevedono. Questa è sostanzialmente la linea difensiva intorno a questa vicenda che di fatto avvelena l'inizio del suo mandato. Questo diciamo su quanto accaduto appunto nel botta e risposta Grillo Juncker. Oggi però è anche la invece grande giornata, si aspetta con grande speranza l'esito di una missione straordinaria come quella di Rosetta, la caccia alla cometa Churyumov-Gerasimenko a oltre 500 milioni di chilometri di distanza da noi. File, che è un robottino, è stato sganciato dalla navicella Rosetta, che ha impiegato 10 anni a raggiungere quella posizione, e oggi intorno alle 4 cercherà lo straordinario esito, appunto posandosi per analizzare il contenuto superficiale della cometa. Allora, per approfondire questo aspetto abbiamo sentito Franco Bonaccina, che è il portavoce del presidente dell'Agenzia Spaziale Europea. Lo sentiamo al microfono di Valentina Furlanetto. Qui al centro di controllo ci sono circa un centinaio di colleghi che si dividono in tre turni per poter seguire 24 ore su 24 l'attività di Rosetta. C'è qualcuno che ha anche dormito molto molto poco durante la notte, soprattutto quando si è manifestato questo problemino con la pressurizzazione del retrorazzo. Ci sono scienziati da tutto il mondo, speriamo di riuscire a riscrivere qualche capitolo della storia della scienza spaziale. Cosa si può dire del ruolo dell'Europa e dell'Italia? Beh, si può dire che Rosetta è made in ESA, ma anche molto made in Italy. C'è una grossa partecipazione di industria italiana, ci sono innanzitutto più di 60 aziende da 14 paesi europei che hanno contribuito alla costruzione di Rosetta e del modulo di atterraggio, e quindi insomma è veramente una costruzione, un Lego europeo. Un Lego europeo a caccia di fatto dei segreti della creazione del sistema solare. La notizia, speriamo positiva, dovrebbe arrivare intorno alle 17 con un margine di una quarantina di minuti. Infatti bisogna ricordare che i segnali inviati dalla cometa di fatto tardano 28 minuti per raggiungere la Terra e proprio per questo è impossibile comandare direttamente il robot che in questa fase è in caduta libera rispetto alla cometa. Bene, vi aggiorneremo naturalmente nei giornali radio. Per ora è tutto per l'Europa con Europa 24. Torniamo domani. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.